Scorpione. Gennaio. Lo scorpione inizia l'anno con il sostegno di Giove nella sesta casa, quindi con delle belle aperture in campo lavorativo, con buone soddisfazioni anche in campo finanziario. Dal 3 di gennaio Venere entrerà nel vostro quarto campo, portando il focus su chiarimenti in famiglia e attenzioni verso la casa. Il 12, Marte in Gemelli nel vostro ottavo campo, inizierà il moto diretto, permettendovi di gestire in modo attivo e soddisfacente le vostre risorse economiche. La passione è molto favorita da tale aspetto. Tanto più che il 22 Urano riprende il moto diretto, aggiungendo un tocco di trasgressione alla vostra vita. Febbraio, a partire dall'11, avrete la presenza di Mercurio nella quarta casa. Potrete quindi chiarire delle faccende familiari e occuparvi della vostra abitazione con soddisfazione. Dal 18 il Sole entra in quinta casa, facendo un felice trigono. Sarete più predisposti per gli incontri o per chi è in coppia, sarà un periodo di rinverdimento del rapporto. Il 15, una bellissima congiunzione di Venere con Nettuno vi potrà portare a festeggiare un memorabile San Valentino. Il 20, Venere entrerà in Ariete e vi sosterrà nelle faccende di lavoro, ammorbidendo le vostre asperità attraverso dei modi garbati e armoniosi. Marzo è un mese di passaggi molto importanti. Dal 7 del mese Saturno entrerà in Pesci, nel vostro quinto campo. Avrete un modo nuovo di concepire le relazioni, facendovi carico delle esigenze altrui. Il vostro partner si sentirà compreso. Per chi è genitore si vedrà recuperare dei metodi leggermente più autoritari. Cercate di puntare sull'autorevolezza che, grazie al vostro Plutone, vi è consono e naturale. A partire dal 23, anche il passaggio di Plutone dal Capricorno all'Acquario vi porterà a dover gestire delle dinamiche di potere in ambito familiare e dover prendere in mano delle decisioni non sempre molto facili. Aprile, a partire dal 3 del mese, Mercurio in Toro vi aiuta a conoscere nuove persone e trovare il giusto modo di relazionarvi con gli altri. Anche Vesta entrerà in Toro il 15 del mese, facendovi capire le esigenze del vostro partner e riuscire a fare i giusti passi per rispettarne i bisogni. Dal 21 Mercurio inizierà il moto retrogrado, obbligandovi a tirare i remi in barca rispetto a dei rapporti che si stanno un po' sgretolando. L'eclissi di Sole del 20 di aprile porterà importanti cambiamenti. Non sarà necessariamente un periodo facile, ma potrete trarre dei profondi insegnamenti che vi saranno utili in futuro. Maggio. Il 2 del mese l'asteroide Pallade entrerà nel Leone, portando creatività nel vostro lavoro e nelle vostre attività. Dal 7, Venere in Cancro vi aiuterà a riprendere in mano i libri o potrà favorire i viaggi. Dal 21, il Sole in Gemelli vi aiuterà a gestire con brillantezza i vostri risparmi. Dal 16 di maggio, Giove passerà in Toro, favorendo incontri e nuove fasi della vita di coppia. Attenzione alle spese e uscite economiche, soprattutto per i nati nella prima decade. Giugno, il 5 del mese, Venere entrerà in Leone e vi permetterà di gestire al meglio le dinamiche lavorative. Saprete trovare le parole giuste per parlare ai vostri superiori o a persone di potere. L'11 Mercurio entrerà in Gemelli, aiutandovi nelle faccende finanziarie e ispirando in voi le parole giuste per parlare alle persone amate. Il 21 solstizio d'estate il Sole entrerà in Cancro, favorendo viaggi e progetti. Mercurio entrerà in Cancro invece il 27, portando ulteriore movimento e dinamicità alla vostra vita. Luglio, a partire dal 10, Marte in Vergine potrà smuovere un po' le amicizie. Fate attenzione a possibili incomprensioni o discussioni. Dal 12 di luglio il nodo lunare entrerà in Ariete. Potrete finalmente abbandonare il percorso karmico che vi ha riportato indietro nel tempo durante il vostro passaggio del nodo sud. Ora è il momento di raccogliere i frutti e il destino si sta orientando verso la sfera del lavoro. Saranno favoriti soprattutto i nati nella terza decade. Intorno al 20 fate attenzione ai litigi. Marte in Vergine, opposto a Nettuno, potrà dare adito a incomprensioni. Il 28 Mercurio entra in Vergine, aiutandovi ad ampliare le vostre amicizie e a fare nuove conoscenze. Agosto. Dal 1 di agosto una luna piena in Acquario vi porterà ad analizzare tematiche relative alla famiglia, mentre la seconda luna piena del mese, quella del 31 di agosto, vi stimolerà la creatività e la passione e per chi è genitore aiuterà nella comprensione dei figli. Ricordate che gli effetti di una luna piena si percepiscono per 28 giorni. settembre. Dal 4 Venere riprende il moto diretto, aiutandovi in modo concreto a trovare soluzioni costruttive sul lavoro. Il 15 del mese anche Mercurio riprenderà il moto diretto dalla Vergine, aiutandovi a chiarire con amici e conoscenti. Riuscirete a mettere in chiaro la vostra posizione in associazioni o gruppi di lavoro. Con l'equinozio di autunno, il 23, avrete modo di fare un periodo di introspezione, dato che il Sole entrerà nel vostro dodicesimo campo in bilancia. Ottobre, dal 5 Mercurio in bilancia vi porterà a comprensioni profonde. Potreste in questa fase scoprire un nemico nascosto. Dal 9 Venere in Vergine vi renderà benvoluti nel gruppo di amici e conoscenti. Vi potrebbe essere qualche avance che vi potrà arrivare a sorpresa da una persona che non vi aspettereste. Dal 22 del mese Mercurio in Scorpione vi renderà interessanti e capaci di risolvere problemi complessi. Dal 28 ritirate i remi in barca perché l'eclissi totale di Luna potrà farvi confrontare con dei problemi di difficile risoluzione. Rimanete calmi e aspettate che il cielo sia più favorevole e i problemi poi potranno trovare delle soluzioni insperate. Novembre, il 13 di novembre potrà portare Il 13 novembre potrà portare dei chiarimenti grazie alla Luna nuova, in particolare ai nati della terza decade, mentre per aspettare la fine dell'influsso dell'eclissi del 28 di ottobre dovrete attendere il 27 di novembre, quando la successiva Luna piena in Gemelli vi traghetterà su un'isola più ospitale e soleggiata. L'entrata di Marte in Sagittario vi aiuterà a raccogliere i frutti delle vostre passate fatiche e questo avverrà a partire dal 24 di novembre. Dicembre, dal primo del mese, Mercurio in Capricorno vi aiuterà nell'espressione verbale e negli scritti. Dal 4 del mese, Venere in Scorpione vi farà finire in bellezza l'anno, permettendovi di vivere una scoppiettante passione e delle belle soddisfazioni personali. Tale transito vi sosterrà per quasi tutto il mese, fino al 29, giorno in cui Venere entrerà in Sagittario. In generale, per voi Scorpioni sarà un anno di soddisfazioni nel lavoro e nella vita. Nella prima parte dell'anno prendetevi maggiormente cura di voi stessi e del vostro corpo. Comprenderete le ragioni dell'altro, che si tratti di un partner o che si tratti dei figli, ma arriverete ad un'importante maturazione nel settore delle relazioni. A partire da maggio, gli eventi vi porteranno a dover abbandonare il giudizio e osservare con neutralità l'altro. L'estate sarà foriera di soddisfazioni sul lavoro, mentre l'autunno e l'inverno si riveleranno molto intense dal punto di vista passionale.